cos'è quest'estate di Deborah Rosciani. Questa estate di Radio 24 è stata anche l'estate in cui, in questo mese di agosto, in questa prima fascia del mattino, vi abbiamo tenuto compagnia io con Elisabetta Fiorito. Oggi è l'ultimo appuntamento di Ma che cos'è quest'estate. Da lunedì si ritorna ai ranghi tradizionali, peraltro sul finale verrà anche a salutarci Alessandro Milan, che ci anticiperà, magari se ce la facciamo, i temi di cui si parlerà lunedì prossimo. Ma siccome abbiamo sempre un occhio molto attento alla cronaca della giornata, forse non saremo in grado di anticiparvi nulla. Vi anticipo però che da lunedì ritornano Alessandro Milan e Oscar Giannino. Detto questo, i temi invece che affrontiamo questa mattina: potevamo farci mancare anche noi un buon approfondimento nella prima parte della trasmissione sulla campagna sulla fertilità del Ministero della Salute. Il ministro Lorenzin cancella gli spot che sono stati considerati offensivi per la donna. Noi questa mattina torneremo a parlarne, poi, a prescindere di quanto siano stati considerati appunto proprio offensivi per l'universo femminile, parleremo stamattina anche di campagne pubblicitarie efficaci o meno, delle motivazioni ancora una volta per cui una donna in Italia non fa figli, di un paese che diventa sempre più vecchio, e poi parleremo anche con una regista di un film italiano di quelle donne che in realtà fanno una scelta precisa, quella di non fare figli per tutta una serie di motivazioni. Quindi qualche volta l'orologio biologico, diciamo così, non c'entra nulla. Nella seconda parte della trasmissione invece parleremo degli artisti che si indebitano o con il fisco o perché fanno degli investimenti sbagliati. Ha suscitato un grande clamore la storia raccontata ieri dal Corriere della Sera della situazione in cui versa Gigi D'Alessio, le sue società esposte per 25 milioni, insomma, quando i VIP incappano anche in vicissitudini finanziarie ed imprenditoriali e fiscali infelici. Infine, nell'ultima parte parleremo delle caratteristiche di questa estate 2016 che, come molte negli ultimi anni, in realtà ha fatto la sua corsa sui social network, alimentando quel fenomeno che si chiama FOMO, Fear of Missing Out, l'ansia da prestazione digitale. In realtà non se ne parla da ora, ma quest'estate sembra essere veramente scoppiata questa ansia. Insomma, per commentare con noi tutti questi argomenti, soprattutto il primo, se vorrete, che immaginiamo sia già stato oggetto anche del vostro dibattito, magari tra amici, amiche, chiamo soprattutto le donne in causa questa mattina, potete intervenire all'800 24 00 24, scriverci al 349 238 6666. Io non sapevo niente di questa campagna, non l'ho neanche visto. Se vuoi creare una società che scommetta sul futuro e quindi che possa tornare a fare figli, devi creare le condizioni strutturali, gli asili nido, i tempi di lavoro delle famiglie, in particolar modo delle donne, ma non solo delle donne, la gestione dei servizi, che è assolutamente cruciale e fondamentale per un paese. Allora, noi vediamo alcuni paesi europei dove si assiste a un trionfo dei passeggini, ritornano le donne a fare figli. Questi paesi lo fanno perché, non credo perché ci sia una campagna dietro, ma perché magari quelle ragazze, quei ragazzi possono finalmente avere un lavoro a tempo indeterminato, possono prendersi una casa, possono investire in un mutuo, possono avere l'asilo nido sotto casa, possono essere in grado di immaginare un domani. Allora, questa è la vera campagna per poter avere un futuro. Non conosco nessuno dei miei amici che fa un figlio perché vede un cartellone pubblicitario. Vabbè, insomma, Matteo Renzi non sapeva nulla di questa campagna, mi ricorda tanto Scajola che non sapeva che gli avessero comprato delle belle case a Roma. Detto questo, questo è un mio commento, comunque abbastanza anche probabile, insomma, che magari a Palazzo Chigi i vari dicasteri non condividano le iniziative, soprattutto quando sono di potenziale portata come questa. Una serie di prese di posizioni veramente forti, forse inimmaginabili, quasi tutte prese di posizione, peraltro all'insegna dello sdegno, dello scandalo, questa campagna promossa dal Ministero della Salute in vista del cosiddetto Fertility Day, previsto per il 22 settembre, la giornata dedicata alla sensibilizzazione sul tema della fertilità e sul rischio della denatalità, cioè della diminuzione delle nascite. È la prima volta, peraltro, che un'iniziativa del genere viene organizzata in Italia, e più che la giornata del Fertility Day, come sapete, appunto, nelle ultime ore è stata molto criticata la campagna pubblicitaria che l'ha accompagnata, con gli spot e le cartoline di cui tutti avete letto e che portavano questi messaggi: datti una mossa, non aspettare la cicogna, la bellezza non ha età, la fertilità sì, la fertilità è un bene comune. Poi pare anche Devo però ammettere che io non l'ho verificato, che sul sito della campagna ci sia anche un giochino in cui si possa scegliere se interpretare uno spermatozoo o un ovulo e cercare rispettivamente di evitare gli ostacoli rappresentati per esempio da oggetti come boccali di birra e pillole e catturare tutti gli spermatozoi. Insomma, molte di noi donne si sono sentite offese perché viviamo in un mondo che da una parte ci pressa per fare figli, perché il nostro è un paese sempre più vecchio, ma dall'altra parte non ci dà strumenti, questo Renzi lo diceva chiaramente, e servizi per mettere su famiglia prenderci cura adeguatamente dei nostri figli. Molti hanno fatto anche notare che questa campagna sembra descrivere la maternità più come un dovere che come una scelta consapevole. Qualcuno poi l'ha bollata addirittura come retrograda e fascista. Noi ne parleremo questa mattina dando tagli diversi, facendo anche un piccolo focus iniziale di carattere medico-scientifico. Maria Giovanna Luini con noi, medico, comunicatore scientifico e scrittrice, buongiorno e ben ritrovata. Buongiorno Debora, buongiorno a tutti. Amica soprattutto di Cuore e Denari, ma ormai grande amica di tutte le trasmissioni di Radio 24. Tra l'altro ho notato, dottoressa Luini, che poco fa lei su Facebook ha scritto: essere esperti di comunicazione non è essere comunicatori scientifici. Perché l'ha detto? L'ho detto proprio in relazione alla campagna, perché il comunicatore scientifico sa anche quando non urtare la sensibilità di tutti, diciamo, quasi tutti. Questa campagna ha dei contenuti importantissimi, fondamentali, ma ha urtato la sensibilità di troppe persone, quindi non c'è dietro un comunicatore scientifico. Allora, dottoressa Luini, intanto parliamoci chiaro, noi donne siamo delle incubatrici a scadenza, questo lo sappiamo molto bene, no? Però, fertilità. Andiamo su questo concetto, sì, perché si declina, sì, sia al femminile che al maschile. Molti hanno detto però, ecco, questa campagna punta il dito soprattutto, sì, sulla donna, ma in realtà vale la pena forse proprio puntualizzare il fatto che parliamo di una fertilità sia per le donne che per gli uomini. Assolutamente, la fertilità riguarda uomini e donne, ogni fase della produzione o maturazione delle cellule della fertilità maschile e femminile, gli spermatozoi e gli ovuli. Adesso, senza entrare in un merito eccessivamente scientifico, donne e uomini sono più o meno ugualmente esposti al rischio di essere infertili o poco fertili. Si usa anche la parola sterile, che è una parola un po' forte, un po' aggressiva psicologicamente. La sterilità o infertilità riguarda anche gli uomini. Di solito viene comunicata un po' meno, anche perché dal punto di vista psicologico l'infertilità ha un impatto differente su uomini e donne. Quali sono le differenze? La differenza è che conoscono molto bene chi questi problemi li vive, naturalmente. Sì, purtroppo nell'uomo vale una specie di equivalenza profondamente sbagliata, psicologica, tra infertilità e impotenza. Non c'entrano niente l'una dall'altra, salvo rari casi. Infertilità non è impotenza maschile. Questa equivalenza, però, che ripeto è scorretta, crea spesso problemi di relazione tra il medico e i cosiddetti pazienti. L'uomo accetta di meno di mettersi in discussione sulla fertilità perché in media crede che riguardi la potenza sessuale e non c'entra nulla. Nella donna l'infertilità ha un impatto psicologico ovviamente grosso, però ha una diversa valenza a livello di attività sessuale. Questa è una differenza di base. Per quanto riguarda invece la fertilità, donna e uomo sono tra loro simili, ma l'uomo produce le cellule della fertilità, la donna ce le ha già, che sono gli ovuli, e queste cellule maturano a ogni ciclo mestruale. La durata della fertilità dell'uomo, lo sappiamo, è più prolungata perché dura tutta la vita. Il picco di fertilità è circa i 25 anni per donne e uomini, ma l'uomo va avanti a essere fertile per tutta la vita, la donna smette, certo, di esserlo progressivamente, e qui il concetto orrendamente descritto di orologio biologico, e smette totalmente alla menopausa. E naturalmente il fatto che l'uomo sia fertile più a lungo rispetto alla donna, questo non significa che poi sia auspicabile che un uomo diventi padre a 60 anni, poi lì si potrebbero aprire, certo, tutta una serie di altri, certo, dibattiti, però biologicamente parlando le condizioni, certo, sono diverse. Certo. Allora, dottoressa Luini, oltre a sottolineare che la fertilità ha i suoi tempi, questa campagna di cui stiamo parlando ormai in lungo e in largo, tutti quanti, vuole coltivare anche nei giovani la cultura della prevenzione, perché i giovani ne hanno poca consapevolezza, perché probabilmente c'è poca informazione anche su questo, gli organi riproduttivi maschili e femminili sono esposti a fattori diversi che ne possono compromettere la salute, un pericolo serio di cui spesso si prende coscienza un po' tardi. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, una coppia su 5 scopre le difficoltà di concepimento quando proprio nel momento in cui decidere di mettere su famiglia. In realtà molti problemi si potrebbero scoprire prima e prevenire. Assolutamente, le faccio l'esempio del fumo di sigaretta. Il fumo di sigaretta è una delle principali cause di infertilità femminile e maschile. È un classico vedere persone che sono oggettivamente disperate perché hanno una bassa fertilità o non hanno fertilità, arrivano dopo aver fatto un miliardo di esami e fumano. È molto inquietante perché questa è un'ignoranza di base. Ignoranza che si può ovviamente rimediare, si può guarire. Lo stile di vita, per esempio il fumo, oppure nella donna il sovrappeso o il sottopeso, quindi le alterazioni estreme del peso corporeo, sono cause di infertilità, al di là del fatto che esistano fattori esterni come alcuni farmaci che purtroppo a volte sono necessari che possono causare infertilità. La campagna in sé è importantissima perché informare le persone è sempre fondamentale, soprattutto quando loro possono fare qualcosa per preservare la propria fertilità. Le faccio un altro esempio: scaldare troppo i testicoli oppure tenerli in biancheria troppo stretta, in vestiti troppo stretti, può ridurre la fertilità. Detto così sembra banale, ma non è banale. No. L'importante è che i ragazzi lo sappiano. E certo, è che i medici lo dicano con grande chiarezza naturalmente ai propri pazienti, non le dico come hanno drizzato le antenne Peter Bescapè e Massimiliano Lollis a sentire appunto esprimere quest'ultimo concetto. Ovviamente anche il mio commento iniziale dell'incubatrice a scadenza, che ovviamente voleva essere ironico, già mi ha scatenato addosso l'ira di Dio di SMS da parte degli ascoltatori. Stiamo cercando un pochino anche di sdrammatizzare, mi rendo conto che non c'è da ridicolizzare affatto questo argomento, perché parliamo anche di tante storie da raccontare nel nostro paese. Dottoressa Luini, i tempi della fertilità non coincidono con quelli imposti dalla società, ci sono giovani donne che non hanno lavoro, sono impegnate nello studio, giovani coppie che in tempo di crisi devono rimandare un progetto di vita insieme. In questo contesto l'invito a fare figli è suonato, è proprio questo il punto di questa campagna, è suonato come una presa in giro, come una provocazione. Per molte donne le immagini della campagna enfatizzano un dolore che è magari già profondo, e parliamo di quelle che non riescono ad avere figli per tanti motivi. E poi ci aggiungiamo anche un altro gruppo di donne, quelle che magari hanno, e quelle che lei conosce molto bene, dottoressa Luini, perché le frequenta, le cura, le assiste, che magari sono state sottoposte a terapie durissime per la lotta contro il cancro, magari in età giovane, e questo ha pregiudicato per loro la possibilità di avere figli. Immagino che cosa può essere successo nella loro testa alla vista di questa campagna. Successo nella loro testa si vede anche un po' sulle varie pagine Facebook, compresa la mia, sono arrabbiatissime, anche perché pare, però io non ho fatto in tempo a vederla, lo confesso, che esistesse una cartolina, un'immagine, che diceva più o meno così: fare un figlio è sempre possibile anche durante la malattia, e c'era la foto di una donna senza capelli, con un turbante in testa. Ripeto, pare, perché mi è stata messa in bacheca da una di queste signore, ma io non ho fatto in tempo a vederla sua. Anche io non l'ho vista, devo quindi dire la verità, pare. Il concetto è questo: la malattia tumorale, ma anche altre malattie veramente, queste malattie possono limitare, ridurre o a volte azzerare la fertilità a causa della malattia stessa oppure a causa dei farmaci. Adesso, per fortuna, nei centri di eccellenza, e a questo punto parlo di oncologia, c'è la possibilità di preservare gli ovuli. Quindi la criopreservazione degli ovuli permette, al termine delle cure, dopo un margine di sicurezza, dopo tutta la valutazione medica e anche psicologica della persona, di avere gravidanza. Quindi è vero che è possibile avere un figlio, non in tutti i casi, non in tutte le situazioni, però dopo un tumore. Va da sé che queste donne hanno eventualmente una gravidanza al termine delle cure. Come si fa a pensare che siano donne giovani o giovanissime? Diventa una questione anagrafica, ma anche di pura logica. Non posso invitare persone a fare figli solo se, più o meno, questo è il concetto, sono giovani, sapendo benissimo che, e qui ha ragione il Presidente Renzi, non ci sono spesso le condizioni economiche di strutture, e esistono persone che sono costrette, anche per ragioni di salute, a fare figli dopo. Allora il concetto è: non facciamo fare figli a queste persone, è impossibile, è un'invasione della scelta libera delle persone. Un tema molto delicato che adesso scandaglieremo anche con una sociologa della famiglia. Ci ha raggiunto la professoressa Emanuela Naldini. Fra un po' la saluto, devo già andare in pubblicità, ma c'è anche una grande creativa del settore pubblicitario con noi, Anna Maria Teste, e quindi ci spiegherà se la ritiene efficace questa campagna pubblicitaria, se l'avrebbe fatta diversamente e magari come l'avrebbe fatta lei, appunto, magari in seguito ad una bella chiacchierata con un comunicatore scientifico come la dottoressa Luini, che ringrazio per essere stata con noi. Buona giornata, ci risentiamo probabilmente presto a Cuore Denari. Arrivederci. Sì, grazie, presto. Pubblicità tra poco. Ma cos'è quest'estate? Con gli asili nido e le politiche di welfare si fanno politiche sulla natalità, ma le politiche di natalità non curano l'infertilità. Con gli asili nido non riesco a curare l'infertilità, ci vogliono delle terapie. Quindi sono anche qua, è un approccio diverso. Un tema la natalità, un tema la fertilità. È ovvio che poi le cose sono tutte collegate insieme. L'importante del Fertility Day non è una cartolina o l'altra, che passi un messaggio di informazione chiara. Quindi se le cartoline non sono piaciute, si cambiano, ben venga, abbiamo 20 giorni per cambiare insieme le cartoline, per parlare di fertilità e per fare una grande campagna di comunicazione su questo tema. Anna Maria Testa, pubblicitaria, si occupa di creatività e comunicazione ed è considerata una delle più sensibili, più grandi creative italiane. Insegna la Bocconi, segnalo anche il suo bel sito nuovo e utile. Buongiorno. Buongiorno. Allora, vabbè, la ministra Lorenzin ha precisato: un conto è la fertilità, un conto è la natalità, ma secondo lei non aveva ben spiegato gli obiettivi della campagna alla società che si è occupata appunto di creare questa campagna pubblicitaria? Non ha trasmesso bene il messaggio? C'è stato uno, perché adesso ovviamente poi è stata messa in croce anche la società che l'ha creata, parliamoci chiaro ovviamente, però lì insomma qualche messaggio chiaro da una parte o dall'altra non è passato, qualcuno non l'ha recepito. Ma lei condivide chi ha detto che si tratta di una campagna retrograda o di sapore fascista? In ogni caso un polverone l'ha suscitato e questo è quanto desidera ogni campagna pubblicitaria. Anna no, Maria Testa. Fermi tutti. No. Dunque, innanzitutto questa campagna non ha offeso solo, l'ho seguita molto bene, sono andata a leggermi tutto quanto è uscito sia in Italia sia all'estero, e a leggermi tutti i documenti ministeriali, a guardarmi il sito prima che venisse oscurato, a vedermi persino l'orrido giochino del quindi c'è, se io non l'ho trovato esatto. Ecco, questo è quello che fa un creativo della pubblicità, si documenta veramente prima, in fondo. Questa campagna ha offeso tutti, sia uomini sia donne, è stata ripresa all'estero, ha suscitato un orrendo polverone che si poserà solo fra qualche giorno, lasciando dietro di sé dei danni molto forti. Non è vero che in comunicazione l'obiettivo principale e l'unico da perseguire sia il suscitare clamore. Esistono anche dei clamorosissimi fallimenti, questo è un fallimento clamorosissimo, e aggiungo che rimediare un grosso fallimento chiede una moltiplicazione degli sforzi che in questo caso sarà enorme, proprio per le dimensioni nazionali e supranazionali del fallimento. Non basta quindi ritirare le cartoline e gli spot. Ho sentito l'intervista televisiva della ministra, che è stata, mi spiace dirlo, sbrigativa e abbastanza superficiale nei confronti di questi temi. Entro nel merito. Esiste, ed è stato sicuramente trasferito all'agenzia che ha progettato la campagna, un documento di 157 pagine, frutto del lavoro di un ampio tavolo di esperti, che dice molte cose sensate e che dice una cosa del tutto priva di senso, che consiste nella intenzione di restituire prestigio alla maternità, come se la maternità in questo paese poi avesse perso aperte virgolette, prestigio, e di operare una provocazione sociale per cambiare la percezione delle cose. Allora, la comunicazione non funziona così, la comunicazione persuasiva non funziona così, la comunicazione persuasiva su temi sensibili non funziona per niente così. Non è vero che non sia possibile informare, e non che non sia tecnicamente impossibile informare, anche se in maniera semplice e divulgativa, le persone su questi temi. Il problema è che questa campagna non informa, è possibile persino farlo con delle cartoline destinate a girare sulla rete. E poi è possibile farlo con altri materiali integrativi. È un lavoro di somma di piccoli messaggi precisi l'uno all'altro. Che cosa avrebbe enfatizzato lei Queste cartoline non danno mezza informazione. Non dicono esiste un tempo ideale, ottimale per fare bambini. Pensaci un po' prima, perché magari se ci pensi in ritardo potresti avere dei problemi. Dice, uè donne, sbrigatevi, è un'altra cosa. Non dice, attenzione, potenza e fertilità sono diverse. Se questo è uno dei problemi di percezione, è in questo merito che bisogna entrare. Ma mostra una buccia di banana abbandonata. Riaprendo l'equivoco, sappiamo tutti che cosa simboleggia una banana, riaprendo a questo punto l'equivoco fra potenza e fertilità invece che scioglierlo. Ci sembra, Anna Maria Testa, anche un caso che probabilmente farà scuola anche nel settore pubblicitario. Sì, purtroppo la comunicazione ministeriale è piena di casi negativi. Perché è delicato fare la pubblicità a progresso. Un conto è dover accontentare un cliente privato, immagine un conto invece doversi sobbarcare anche dell'impegno di far passare certi messaggi. Dipende. È possibile farlo bene, non è la prima volta che lo si fa. All'estero ci sono casi di informazione sanitaria virtuosissimi. Non veniamo giù dal pelo, cioè trattare questi argomenti è possibile anche se complesso, ci sono molti altri argomenti ugualmente complessi o un po' meno complessi, ma abbastanza complessi e possibili da trattare. In questo caso l'approccio è stato sbrigativo, superficiale, demagogico, propagandistico, violento, offensivo, intenzionalmente provocatorio, e questa è una follia, perché non si può essere provocatori su una sfera così sensibile, delicata, dolorosa, intima. Ma come si permette? L'abbiamo capito chiaramente il cuore del suo messaggio. Grazie ad Anna Maria Testa. Dal punto di vista dell'esperto del settore pubblicitario, appunto, il commento è passato con molta chiarezza. Il giudizio. Vorrei adesso andare all'altro aspetto sollevato. Figli che non si fanno in Italia, a prescindere dalle questioni legate alla fertilità, per tutto l'annoso problema che richiamiamo praticamente una volta al giorno di mancanza di un welfare adeguato in Italia. Manuela Naldini insegna sociologia dei processi culturali e comunicativi e sociologia della famiglia all'Università degli Studi di Torino. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti. Ha senso un piano nazionale per la fertilità in Italia? Beh, avrebbe più senso un piano nazionale per la famiglia e sicuramente un piano nazionale in cui si include, oltre a una campagna informativa che sicuramente è sempre benvenuta, soprattutto quando ha degli scopi preventivi, anche se è stato già detto che questa campagna sembra aver fallito appunto nel mandare un messaggio anche di prevenzione rispetto al problema dell'infertilità. Ma a mio parere appunto alcuni passaggi proprio del documento con cui la campagna viene presentata, in realtà più che di infertilità parlano di denatalità, e allora ovviamente, come è stato ricordato insomma in questo polverone dallo stesso premier, mi è parso di sentire stamani alla radio, insomma sono ben altri gli strumenti che si dovrebbero mettere in campo. E allora sì, un piano nazionale a sostegno della famiglia, a sostegno delle famiglie con figli, perché in questo caso stiamo parlando delle famiglie con figli, non di tutte le persone, non di tutti gli individui, non di tutte le coppie, ma di quelle che hanno figli o che vorrebbero o che vogliono avere dei figli. Perché siamo in una società in cui il figlio non è più un destino, ma è una scelta, come sappiamo. Esatto. E proprio perché è una scelta consapevole, per fortuna, nella maggioranza dei casi, quasi sempre, nel nostro paese, è una scelta che deve essere condivisa intanto con un'altra persona. È una scelta che dura nel tempo, irreversibile, che quindi ovviamente mette in campo delle responsabilità forti. E oggi questo fa sì che appunto ci sia difficoltà a mettere in atto un progetto riproduttivo diciamo nei 30 anni, spesso si arriva ai 40, e quindi sorge anche il problema di una fetta appunto di coppie, e non direi di donne, di coppie, che si ritrovano appunto alla soglia dei 40 con la difficoltà a procreare, certo, quindi a dover ricorrere alla procreazione medicalmente assistita. Ecco, in questo senso credo che per esempio sicuramente uno scopo del lavoro di un ministro della sanità è anche quello di far, oltre una campagna preventiva, anche migliorare gli interventi che sostengono coloro che intraprendono i percorsi di procreazione medicalmente assistita. E mi pare che fortunatamente la legge 40, come sappiamo, legge 40 sulla procreazione assistita, è stata smantellata dagli interventi della Consulta, ma sappiamo che per esempio le donazioni in Italia sono ferme, non sono ripartite, quindi in questo senso qui sì, sarebbero utili per sostenere la fertilità, diciamo, dei miglioramenti e evitare o ridurre il numero di coppie che sono costrette ad andare all'estero per realizzare un progetto di genitorialità, e sono le coppie poi che hanno più risorse, che possono permetterselo, no? Non tutte le coppie possono permetterselo. Quindi in questo senso credo che ci sarebbe ancora tanto lavoro da fare. Le leggo, professoressa Naldini, un messaggio di un ascoltatore fra, non le dico cosa non sta arrivando questa mattina, sia al telefono appunto che al... Adesso sentiremo, magari se ce la facciamo prima di chiudere, un paio di ascoltatori con le loro posizioni, ma anche tre messaggi sono tutti piuttosto interessanti. C'è un ascoltatore che dice: negli anni 70 non c'era welfare della famiglia, ma lo stipendio del marito era sufficiente a sfamarla tutta, questa famiglia, la donna poteva liberamente fare la mamma a tempo pieno, mentre oggi la donna è obbligata a lavorare. Anche su questo concetto dell'obbligo a lavorare appunto si potrebbe aprire un dibattito interminabile. In realtà la verità è che in Italia c'è un problema, che le donne lavorano troppo poco perché devono scegliere tra la professione a volte e la procreazione. Ma proprio soffermandoci su questo punto, professoressa Naldini, noi stiamo continuando a dire che manca una politica di welfare adeguata a sostenere i progetti di vita di molte coppie, mancano asili, politiche di sostegno, i nonni non possono più prendersi cura appunto dei propri nipoti, ma siamo proprio sicuri che non stia cambiando anche qualcosa nella testa della donna? Allora, ovviamente io come sociologa mi occupo meno delle teste delle donne, ma più di fattori insomma che stanno intorno e che possono avere delle pressioni, delle ripercussioni, che mi sembra importante sulle teste delle donne. Certamente noi quello che vediamo è che in tutti i paesi in cui ovviamente c'è stato un cambiamento nel senso di una partecipazione anche delle donne nel mercato del lavoro, paesi intendo sviluppati, occidentali, europei, e conseguenti anche a un aumento dell'istruzione delle donne, c'è stato un cambiamento complessivo nel modo di vivere, di interpretare anche il diventare genitore, quando, come, con che cadenza, con che aiuti, con che sostegni, in quale clima sociale. Allora, è del clima sociale che mi interessa parlare, cioè il clima sociale italiano rispetto non solo alla maternità ma anche alla paternità, e su questo insisto, perché di nuovo si continua a attribuire tutto il peso in qualche modo del diventare genitore alle donne, e anche la responsabilità di coloro che decidono di avere un solo figlio, perché poi in Italia un figlio si fa, in verità il problema è il secondo figlio, alle donne. In verità in Italia nessuno dice che i padri sono i più vecchi al mondo, cioè i padri, coloro che diventano padri per la prima volta, sì, sì. Italia detiene il record. anche le donne al primo parto sono in cima alla classifica, ma non sono le prime. Le aggiungo anche, professoressa Naldini, qualora dovesse servirle questa considerazione per i suoi studi, un'ascoltatrice dice: perché non parlare anche delle donne che non trovano il partner con cui fare un figlio, anche per la manifesta immaturità del maschio? Mi fa sorridere, magari la ministra Lorenzin anche questo poteva mettere in uno delle sue cartoline. Ce la prendiamo a ridere, naturalmente, non sono giudizi espressi da questo microfono, ci mancherebbe altro, ma insomma il tema è talmente delicato e, come giustamente diceva Anna Maria Testa, per molte donne anche doloroso, che forse un pochino vale la pena sdrammatizzare. Sì, comunque sottolineare solo per concludere il pensiero sul tema del lavoro. In verità, quello che noi vediamo, questo anche dalle nostre ricerche, è che aumentano le donne che si trovano costrette a interrompere il lavoro dopo la nascita del primo figlio. E questo con la crisi è aumentato ulteriormente. Quasi un quarto delle donne che ha un lavoro nel momento in cui resta incinta, dopo 2 anni non ha più quel lavoro. E tra le donne che lasciano il lavoro non ci sono le donne che scelgono solo di lasciare il lavoro, ma cresce in modo molto elevato, più del 67%, quasi il 70% delle donne che hanno lasciato il lavoro quando il bambino è sotto i 3 anni dichiara di aver lasciato il lavoro per motivi di conciliazione, quindi di difficile conciliazione. Allora, questo dimostra che lì c'è tanto da fare. Esattamente. Allora, peraltro, vi faccio sentire adesso invece una voce completamente controcorrente rispetto a questa campagna, tutti contro, tutti ad additarla come inefficace, offensiva, e tutti gli aggettivi che le abbiamo dato in ogni modo. C'è però Marco da Milano che ci chiama all'800 24 00 24, uomo completamente favorevole al messaggio che ha letto. Marco, benvenuto. Marco, c'è? È sparito. Allora facciamo una cosa, andiamo alla prossima ospite e ve la presento con questa clip. Se uno prende in questo modo così forte e simbolico questa storia della maternità, cioè è finita. Non lo fai. La devi marginalizzare, la devi ridimensionare, la devi vivere come una cosa, una voglia, è una cosa come tante nella vita, oddio, come forse poche, ma come altre. Sto fuoco, cioè non è che me lo sento tanto, cioè nel senso, non so se è una cosa più mentale o come tante donne che ho visto impazzire a un certo punto intorno ai 39 anni perché dobbiamo assolutamente fare un figlio, cioè nel senso, io non voglio neanche quella cosa là. È una clip tratta dal film documentario Stato Interessante di Alessandra Bruni, ve lo segnalo già subito, prendete carta e penna, un film che andrà in onda su Rai 3 giovedì 17 settembre alle 23.40, siamo con la regista Alessandra Bruno, buongiorno. Buongiorno. Detto correttamente, non è che ho preso una... Alessandra Bruno, sì, il film è andato già in onda. Ah, è andato... Sì. È andato già in onda l'anno passato? Sì, ah, ecco, quindi è già un po', visto che infatti ho trovato un articolo allora vecchio, lo sto controllando adesso. Detto questo, per chi lo volesse cercare su internet e magari ci dica se possiamo recuperarlo, ma ci interessa più che altro il messaggio che è voluto passare, perché leggo che questo film è nato dalla sua esperienza personale. Non è un film sugli effetti della crisi e la precarietà del lavoro e degli affetti, è un film sul sentimento un po', direi, primario della donna, quello che si agita nel cuore della donna che non riesce a vivere la maternità, quindi un ulteriore aspetto rispetto a tutti quelli che già abbiamo affrontato questa mattina. Alessandra Bruno. Sì, non so se è esattamente questo il senso del film, è senz'altro anche questo, ma è il mio interesse, insomma, la mia indagine è stata soprattutto sul desiderio, sull'origine di questo desiderio e su quanto poi ambivalente, indefinibile, ambiguo sia, e quindi quanto non sia possibile dare una risposta certa a questa istanza, insomma. Non ci sono delle attrici famose a interpretarlo, ma le amiche di Alessandra Bruno e le amiche delle amiche, no? Quindi esperienze di vita reale. Che cosa hanno raccontato queste donne? Un po' di testimonianze le abbiamo già sentite nella clip. Ma tutte sono state messe di fronte alla questione, nel senso, si tratta di donne che tutte intorno ai 40 anni, senza figli naturalmente, e alle prese con quella che appunto in questi giorni è stata definita terroristicamente la fase della clessidra, cioè quella del momento in cui, se non altro, la scelta si impone biologicamente, ma si impone semplicemente perché non si può fare a meno di pensarci, o perlomeno il limite biologico, insomma, superato il quale poi la scelta si fa da sola. Quindi di fronte a questa fase, di fronte a questo limite, molte, non tutte, perché alcune hanno le idee già chiare fin dal principio, insomma la questione è molto complessa, non c'è una risposta valida per tutte, però le donne che ho intervistato io si interrogano sul loro desiderio, e cioè sulla possibilità di individuarlo, di capire dov'è, se c'è, dov'è finito, se perché non è venuto prima, insomma tutta una serie di domande che molte donne si fanno, certo, e alle quali poi danno risposte molto diverse Quali sono state quelle che l'hanno colpita di più? E le chiedo anche, ci sono donne, perché qui c'è anche tutta una corrente di cui dobbiamo prendere coscienza, di quelle donne che invece di figli non vogliono proprio sentir parlare, non perché siano in maniera così un po' ossessionata dalla carriera, ci sono anche delle scelte di vita che si fanno pur non dovendo magari perseguire chissà quali obiettivi. Alessandra, Bruno. Sì, certo che ci sono, ed è difficile accettarla questa cosa, ma ci sono tantissime, ma non sono solo le donne che hanno sempre avuto le idee chiare su queste, che quindi non li hanno mai desiderati, non li hanno mai voluti, ma sono decidono di non averli anche le donne che passano attraverso crisi, attraverso queste domande, attraverso la cui risposta poi può essere anche quella di non desiderarli, non volerli, non individuare nell'essere madre una priorità, insomma esistono, sono tante e sono assolutamente libere di fare le loro scelte e di non per questo sentirsi sminuite o giudicate. Ecco, insomma, questo... sfera intima e personale da rispettare. Assolutamente personale da rispettare ed è assolutamente improponibile il fatto di doversi sentire giudicate o doversi sentire spinte ad un dovere dal quale, insomma, mi sembra ci siano fatte tante cose per liberarsi. Non è un dovere. Grazie ad Alessandra Bruno. Spero di recuperare il suo film, appunto, per vederlo. Lo farò molto volentieri. E intanto, come promesso, abbiamo recuperato l'unica voce maschile che si è manifestata questa mattina in onda, perché è stato del tutto un caso, ve lo assicuro. Abbiamo messo insieme in realtà tutte voci femminili per commentare praticamente il fatto del giorno. Marco da Milano, buongiorno. Lei, voce maschile, favorevole a questa campagna. Ce lo dice perché in 40 secondi? Ma sì, buongiorno a tutti innanzitutto. Io confesso che non ho visto nel dettaglio la campagna, però come tutto quello che ho sentito dai vari media, mi sembra di capire che comunque un messaggio di questo tipo, per la mia esperienza di vita, di coppia, che insomma ha affrontato l'infertilità, l'avessi saputa prima, anche con metodi un po' scioccanti, forse avrei evitato tutta una serie di atteggiamenti, esperienze che mi hanno portato a questo, la sofferenza mia, di mia moglie, per avere un figlio e così via, insomma. Marco, grazie per la sua testimonianza, sarà contenta anche di questo conforto la ministra Lorenzin, e quindi almeno da questo punto di vista forse lo spirito della sua campagna era corretto. Grazie anche alla professoressa Manuela Naldini per essere stata con noi. Ci fermiamo, è tempo adesso di andare a sentire cosa è successo in Italia nell'ultima ora. Il giornale radio, noi torniamo subito dopo. Ma cos'è quest'estate? Allora, intanto vi lascio immaginare lo strascico di SMS sul tema precedente. Se fossimo andati avanti per altre 2 o 3 ore, veramente non posso immaginare che cosa poteva succedere in termini di commenti e prese di posizione, tutte naturalmente ragionevoli, perché chiaramente quantomeno quello più arguti di buonsenso sollevano la questione della mancanza di adeguata protezione sociale per le famiglie italiane che vogliono o mettere su famiglia o farla crescere, quindi il tema è un po' quello. Poi ovviamente molti commenti anche dalla parte degli uomini, c'è chi ritorna sulla questione della fare figli come se fosse solo una responsabilità delle donne, ma il richiamo anche ad una trattazione un po' più adeguata del tema della paternità forse valeva la pena farlo. Insomma, veramente tante sfaccettature e tanti aspetti che state sollevando, ci fa piacere, abbiamo capito che abbiamo toccato, non noi naturalmente, ma proprio il dibattito per come si è posto in questi giorni, un tema caldissimo e che agita un po' tutti quanti, non solo le donne naturalmente. Allora andiamo invece adesso al nostro prossimo approfondimento. Ieri sul Corriere della Sera Mario Gerevini raccontava del momento particolarmente difficile che sta attraversando Gigi D'Alessio. Una montagna di debiti gravano sulle sue spalle a causa di affari sbagliati in cui si è imbarcato, e poi debiti di varia natura, contratti con banche finanziarie, ma anche con un bel po' di amici, persino con Valeria Marini sembra che abbia un arretrato notevole. Ora, è chiaro che noi in questo momento siamo un po' più preoccupati per i terremotati del centro Italia, no? Però abbiamo lo stesso voluto un po' analizzare questo mondo, perché la lista dei VIP super benestanti che si inguaiano all'inverosimile, spesso e volentieri con il fisco, ma non solo, è davvero lunga, impressionante. Succede per tante ragioni, perché sono mal consigliati, sono anche avvicinati da personaggi di dubbia reputazione che si li girano e rigirano come vogliono. Come faccia non è dato saperlo, è successo per esempio con il Madoff dei Parioli, adesso ne riparleremo anche di quella vicenda, e insomma abbiamo scelto questo argomento tra i due che abbiamo individuato per chiudere questa estate, con un tema che per certi versi ci fa un po' sorridere, perché immagino con tutte le famiglie che ci hanno scritto affrontando anche il problema precedente di chi non riesce a sbarcare il lunario, quindi non riesce neanche a fare figli, certo che parlare delle decine di milioni di euro di debiti di Gigi D'Alessio, immagino che non abbiamo proprio colto un problema che rientra nella vostra sensibilità. Detto questo, quello che così vogliamo sollevare è anche un po' l'aspetto del fatto che non è detto che essere VIP e particolarmente ricchi significa avere magari dei patrimoni ben gestiti, avere sempre un'assistenza anche professionale adeguata, per cui scandagliamo un po' di aspetti questa mattina. Lo facciamo intanto con due colleghi del Sole 24 Ore. Saluto e ringrazio Stefano Elli. Buongiorno. Buongiorno Stefano. Ciao Deborah, buongiorno. Lui è il vero esperto del Madoff dei Parioli, gli chiederemo se l'ha incontrato e quali sono i VIP che sono incappati nella dubbia professionalità appunto di questo individuo, che per la verità ha incontrato anche le aule di tribunale, per cui la sua è poi una vicenda. Tra l'altro credo che sia tornato in libertà da pochi giorni. Ecco, benissimo, adesso ce lo racconti. Angelo Mincuzzi, sempre il Sole 24 Ore, caporedattore inviato, buongiorno Angelo. Buongiorno a tutti. Lui invece lo ricorderete perché un anno fa lo abbiamo intervistato un sacco di volte, ma non solo noi, in realtà ha scritto questo libro di successo fra le altre cose, La cassaforte degli evasori, vi ricorderete la lista Falciani, appunto la lista che era stata elaborata e resa pubblica di questo funzionario informatico della banca HSBC di Ginevra, contenente i nomi e le informazioni riservate di tutta una serie appunto di personaggi, molti anche italiani e quant'altro. E poi abbiamo scomodato anche un professionista del fisco, Raffaello Lupi, docente di diritto tributario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma Tor Vergata. Buongiorno anche a lei. Salve, buongiorno. Allora, anche su questo tema, se volete, potete intervenire all'800240024 oppure potete scriverci al 349-238-6666. Allora, la lista dei VIP incappati in guai fiscali o cattive scelte imprenditoriali che poi li hanno ridotti appunto sull'astrico è veramente lunghissima. Devo dire che gli italiani, soprattutto gli artisti, i grandi cantanti, hanno, Angelo Mincuzzi, vorrei cominciare con te, in realtà un rapporto molto discutibile con il fisco. Allora, qua non si capisce per quale motivo, ma partendo da Gino Paoli indagato per evasione fiscale, la Simona Ventura, Vanessa Incontrada, a gennaio scorso Biagio Antonacci addirittura è finito a processo per evasione, ricordiamoci di Valentino Rossi, poi toccò anche a Luciano Pavarotti, è toccato anche ad Alberto Tomba, è toccato anche a Giancarlo Fisichella, ma qua insomma a Gianna Nannini avrebbe evaso circa 4 milioni di euro, insomma la lista è lunghissima. Io immagino che questi cantando di fisco non sappiano nulla, ma incontrano tutti il commercialista sbagliato, secondo te? Qual è il comune denominatore di queste storie? Ma ecco, il commercialista sbagliato o l'esperto, il fiscalista o comunque il manager sbagliato sicuramente è la componente principale, perché è chiaro che un Gino Paoli, un Tiziano Ferro o un qualunque artista probabilmente si intende davvero poco di normativa tributaria, quindi il fatto che vengano consigliati da qualcuno che gli dice di aprire una società in un paese offshore, in un paradiso fiscale, o di prendere la residenza in Gran Bretagna dove c'è un certo regime fiscale per i cosiddetti residenti non domiciliati, o in altri paesi, chiaramente questa diventa una discriminante e spesso sono mal consigliati. Infatti l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e le varie procure vanno a spulciare un po' nella loro vita, vanno a verificare se effettivamente vivano a Monte Carlo o in Gran Bretagna la maggior parte del loro tempo durante l'anno e effettivamente dove hanno portato i loro soldi. Quindi io credo, voglio credere alla una cosiddetta presunzione di innocenza o quantomeno un comportamento molto leggero da parte di questi VIP e di questi artisti. Casi diversi sono quelli magari di un Flavio Briatore. Flavio Briatore era nella Linda Falciani. Esatto, infatti, volevo arrivare esatto, lì. Insieme a Valentino Garavani, insieme a Valentino Rossi. Flavio Briatore, per esempio, è un manager, è un uomo che di finanza se ne intende. È vero che da anni non è più residente in Italia, quindi non deve pagare le tasse in Italia, però diciamo i paradisi fiscali li conosce bene. Anche perché in passato alcune sue società sono state utilizzate da Berlusconi nel cosiddetto comparto B, cioè tutta quella parte segreta del gruppo Fininvest attraverso cui passavano tutti i soldi frutto di frode fiscale che sono costati poi la condanna a Berlusconi. Quindi diciamo che bisogna un po' distinguere tra VIP e VIP. Certo, e bisogna anche distinguere appunto fra storia e storia, lo ribadisco, la questione di Gigi D'Alessio riguarda proprio scelte finanziarie sbagliate, avventure imprenditoriali che non sono andate bene. Mi pare di capire dal testo, adesso non me lo ricordo tutto bene, che in realtà non ci siano delle pendenze fiscali per quello che lo riguarda. Detto questo, Raffaello Lupi, vengo a lei per un commento su queste storie. Ogni estate, ogni tanto dobbiamo raccontare delle vicende in cui incappano questi artisti, però insomma più si guadagna più è facile che queste cose accadano. E perché è sempre così scontato che per patrimoni di una certa dimensione, di un certo rilievo, si debba per forza costituire la società e poi magari esterovestirla per cercare di sfuggire alle maglie del fisco italiano? Insomma, ma perché devono sempre mettersi in queste condizioni? Che ne pensa di questo fenomeno a questo punto così diffuso? Ma andiamo per ordine. D'Alessio ha un debito con Equitalia di 1 milione. D'Alessio è finito di striscio in un'inchiesta che riguardava il suo commercialista, che era in un giro di favori scambiati con commissioni tributarie ed Equitalia, e gli stessi PM dicevano probabilmente D'Alessio neppure lo sa, quindi è solo venuto fuori sui giornali perché il nome fa sensazione. Il debito complessivo di D'Alessio con i suoi creditori mi pare sia 25 milioni, quindi quelli con Equitalia erano delle solite noccioline che riguardano le contestazioni interpretative svolte nei confronti di tutti quelli che ha detto Mincuzzi prima, che cercano in qualche modo delle confezioni giuridiche, delle pianificazioni fiscali in modo tale da dirottare, siccome loro non sono pagati dal tizio che fa la festa di compleanno, perché se qualcuno fa la festa di paese o le feste, come si chiamavano le feste? Com'era quella? Le sagre? No. In Piemonte c'è stato uno scandalo che dove c'era una festa organizzata da un'associazione dove ci furono alcuni Massimiliano Loli, se mettiti alla ricerca vediamo diciamo. Qualche... dei nomi importanti dell'intelligenza che venivano pagati in nero da questa associazione. Quindi Quando però si prendono i soldi dalla Warner Bros., da case discografiche, allora non ci si può far pagare in nero. Mm. Allora bisogna appoggiare il pagamento su qualche società che sia protetta dal fisco. Per questo nascono questi. Non sono soldi nascosti, sono soldi che non possono essere nascosti perché sono pagati da un'organizzazione amministrativamente strutturata. Allora il cantante cerca la soluzione interpretativa. Cavour Grinzane, tra l'altro, era la Cavour Grinzane, la manifestazione di brava, Torino. Brava, eccolo qua, proprio questa, proprio questa. Quindi fino a che paga la Mediaset o paga la RAI, però queste cose non si possono fare. Allora, perché alla RAI o a Mediaset serve un documento di spesa genuino, allora si cedono i diritti d'immagine, lo sfruttamento, ci sono tanti trucchetti che però, siccome sono tracciabili facilmente, perché dalla contabilità, dalle segnalazioni dell'erogante si vede, questi vengono presi uno per uno. Allora, tra l'altro, lei se la prende a ridere, devo dire sì che molti ascoltatori se la prendono a ridere, altri veramente sono anche un po' indispettiti, perché effettivamente l'osservazione di fondo che possiamo fare su questa, magari poi chiedo un commento se vogliono a tutti, è per quale motivo artisti che hanno una visibilità così rilevante, cioè Gigi D'Alessio, e ho fatto anche dei nomi altrettanto importanti prima nel corso della sua carriera, ha venduto 20 milioni di dischi, quindi pensate quanti soldi ha guadagnato, ma perché ci si deve infilare in questi tunnel? Cioè, molto spesso il fatto della buona fede, Lupi, ma ci crediamo fino in fondo? Cioè, ci crediamo fino ad un certo punto? Ma Gigi D'Alessio, poverino, ha fatto degli affari sbagliati, voleva riportare, ma tutti li ha inanellati dal primo all'ultimo, santo cielo? Come? Dal primo all'ultimo, possibile che non abbia imbroccato uno? Ma gli affari sbagliati sono una cosa economica. Lui si è fatto prestare dei soldi e ha stupidamente dato delle garanzie, che perché gli imprenditori falliti in galera non ce n'è andato uno, a parte Tanzi. Però di solito chi opera con le società fa attività economica senza dare garanzie personali, e quindi resta tranquillo. Cioè, è difficile, cioè si vede che è stato ingenuo D'Alessio sul lato imprenditoriale. Sul lato del fisco parleremo di una contestazione di un milione. Minima, cioè, rispetto, certo, sui introiti, infatti. E pensate appunto che Gerevini solleva che ha debiti superiori al numero dei dischi venduti, dicevo prima 20 milioni di dischi e 25 milioni appunto di esposizione delle sue società. Ha ipotecato praticamente tutto il suo patrimonio immobiliare di famiglia, ha pignorato ogni fonte di reddito e le banche bussano ogni giorno alla sua porta. Le banche, infatti. Allora, il Madoff dei Parioli, Stefano Elli. E non solo il Madoff dei Parioli, come esattamente vedremo. Allora, intanto riesumiamo un po' questa storia. Ce la ricordi? E chi è incappato? Chi lo ha incontrato fra i VIP? Chi è stato, come dire, così felice di essere consigliato per la gestione del proprio patrimonio finanziario da lui? L'humus di raccolta romana della piccola rete di promotori finanziari o procacciatori, meglio, per meglio dire, del Madoff dei Parioli, di Gianfranco Lande, al secolo, era buona sostanza composto da uomini non soltanto dello spettacolo, penso a Sabina Guzzanti e penso anche all'allora compagno Davide Riondino, no? Cantautore reso celebre da Maurizio Costanzo. Ce lo ricordiamo. Ecco. Loro affidarono il loro denaro proprio a questa rete di promotori finanziari e la persero tutta, ma anche padre, per esempio, Paolo Guzzanti, senatore, presidente della commissione Mitrofin. Certo, qua non è che parliamo di cantanti, parliamo di che fanno tutt'altro mestiere, non che non debbano sapere poi come i consulenti gestiscano i loro soldi, però magari, ecco, essendo degli artisti sono un po' più giustificati se la prendono alla leggera le tematiche finanziarie. C'è chi invece forse dovrebbe avere un po' più di percezione del rischio che corre, no? Ecco, io metterei l'accento proprio su una caratteristica di questo mondo, non soltanto uomini dello spettacolo, donne dello spettacolo, ma anche sportivi, che hanno con il denaro un rapporto complicato, perché nella stragrande maggioranza dei casi non sono celebrità e hanno degli afflussi di denaro, di liquidità in determinati periodi che sono molto elevati, e per altri versi, in altre fasi della loro vita, invece hanno afflussi di denaro quasi a zero. Quindi si trovano a gestire improvvisamente delle quantità di denaro assolutamente spropositate, e hanno una difficoltà proprio psicologica nell'approcciarsi a questo tema, e secondo me è un fattore non secondario da considerare. Ma è anche corretto, voglio dire, non è che tutti dobbiamo fare 300 mestieri, eh. L'importante è poter individuare un professionista che ti segua correttamente. Quante volte, Stefano, abbiamo affrontato questo tema in maniera un po' più, come dire, economicamente piccolina? Secondo me è proprio questo il punto, cioè il professionista, quando si vede arrivare davanti delle persone che hanno un rapporto così ingenuo con il denaro, si fregano le mani e cominciano, esatto. E cominciano a pensare adesso facciamo quello che vogliamo. No. Tra l'altro non è che sia un problema solo italiano. Tra gli altri che vengono tirati in ballo appunto dai giornali di gossip su vicende finanziarie, c'è anche Morgan, un altro Morgan. Cantante, ecco, molto... Ma io ricordo una vicenda, mi sono accostato a questa vicenda nel 1996 addirittura, quindi stiamo parlando di addirittura 20 anni fa. C'è stata una sim di Napoli che si chiamava Professione Finanza, gestita da due cugini che si chiamavano De Asmundis. Professione Finanza ebbe tra i clienti, fallì con veramente un brutto botto, tra l'altro Adriano Panatta, che non era il nostro noto tennista, Marisa Laurito, Renzo Arbore. Insomma, è toccata a tutti, se facciamo il censimento. Fredo Angusto, no? Anche Franco, ecco. Califano, visto che mi ricordi anche quella generazione, c'è pure lui che qualche disavventura ce n'è avuta. Sì, come Scalifo Nazionale, oggi, il pezzo di Francesco Prisco, sì. Esatto. Stavo riguardando proprio quel pezzo là, del Sole 24 Ore. E poi anche Andrea Pezzi, DJ molto noto, finì nella vicenda Sopaf con la sua società Ovo Italia per un prestito di 5 milioni. E giornalisti ancora... ce ne abbiamo, Stefano? Beh, diciamo che Paolo Guzzanti è l'esempio più eclatante, insomma. Comunque ce ne saranno sicuramente degli altri. Certo, no, tra l'altro sempre il pezzo di Francesco Prisco ricordava come anche all'estero non è che se la passino meglio. Non lo so se hai fatto anche questo censimento, Angelo Mincuzzi, sugli artisti d'oltreoceano che pure a cui pure tocca, guadagnano addirittura molto di più degli italiani, centinaia di milioni di dollari, eppure riescono a farsi dilapidare il patrimonio in ogni modo. Il caso, uno dei casi più clamorosi, è stato quello di Whitney Houston. Angelo, volevi aggiungere qualcosa su... Ci sono gli artisti, ci sono anche lì gli sportivi. Beh, il caso di Messi è un caso eclatante. Messi è finito un paio di volte sui giornali internazionali proprio per questioni fiscali. E poi c'è tutto il mondo della Formula 1, Fernando Alonso per esempio, Schumacher, insomma tantissimi piloti. In generale, dove circolano tanti soldi è chiaro che circola anche molta elusione o evasione fiscale. La realtà è questa: oggi esistono due mondi diversi. C'è il mondo delle persone normali, che ha uno stipendio e che quindi non può evadere le tasse, anzi le paga tutte fino all'ultimo centesimo, e anzi ne paga anche di più, perché paga per quelli che non pagano, cioè una quota degli evasori sostanzialmente. E poi c'è un altro mondo fatto di appunto artisti, VIP, sportivi, grandi sportivi, imprenditori, finanzieri, banchieri, grandi professionisti, persone ricche, che possono decidere se pagare le tasse, quando pagarle, in che proporzione e dove pagarle. Sono due mondi paralleli che non si incontrano, ma in questo mondo superiore, chiamiamolo così, si annida gran parte, anzi quasi tutta l'evasione fiscale internazionale, che costituisce una fetta rilevante di soldi che poi vengono sottratti a tutti noi, perché tutti noi piace avere le strade illuminate o le strade asfaltate o l'acqua in casa, ma tutto questo lo abbiamo perché paghiamo le tasse. Se c'è qualcuno che non paga le tasse, questo qualcuno ruba qualcosa alla collettività. E i VIP che finiscono sui giornali purtroppo fanno la loro parte, la loro brutta e cattiva parte in questa realtà. Allora, tra l'altro, stavo anche, mentre facevi questo ragionamento, Angelo, mi stavo ricordando di alcuni commenti che abbiamo fatto la settimana scorsa, parlando proprio più in termini generali della piaga dell'evasione fiscale italiana. C'era il coordinatore della CGA di Mestre, che ogni settimana puntualmente ci divulga delle analisi molto interessanti su questo gravissimo problema italiano, e lui proprio enfatizzava il fatto che qualora per esempio ci fosse prossimamente in manovra di stabilità un'altra voluntary disclosure, un'altra operazione per consentire appunto il rientro e agevolare i capitali dall'estero, che bisogna assolutamente provare a mettere mano a tutti i grandi patrimoni che appunto se ne vanno fuori nella totale inconsapevolezza del fisco italiano, perché è da lì che naturalmente si può provare a ridimensionare un po' l'enorme mole di evasione fiscale che c'è in Italia. Io gli contestavo questo aspetto perché dicevo comunque anche i piccoli contribuenti italiani con i furbetti dello scontrino devono fare il loro, ma tu invece mi confermi che forse ha ragione lui, che sono proprio i grossi i problemi, cioè non sono ovviamente i piccoli che magari hanno la casa all'estero che non sanno bene come metterla in dichiarazione dei redditi, ma sono queste le grosse piaghe italiane, cantanti e non solo, peraltro, perché qua c'è sì, tutta. Certo. Voglio dire, la piaga dell'evasione fiscale diffusa, della microevasione c'è, ma molto spesso è una microevasione di sopravvivenza, se vogliamo dirlo tra virgolette, perché essendoci un livello di tassazione elevatissimo in Italia, è chiaro che qualcuno per sopravvivere, per non chiudere, per non licenziare, purtroppo deve non pagare le tasse. Qui invece parliamo di persone che hanno risorse finanziarie enormi, che non potranno mai spendere in tutta la loro vita, neanche i loro figli e i loro nipoti arriveranno a spendere queste ricchezze finanziarie enormi, ed è da lì che bisogna cominciare la vera lotta all'evasione fiscale, ma per far questo ci vuole una vera volontà politica, sì. E qui il problema, come dire, si amplia. Io volevo però ricordare solo un'ultima cosa a proposito di VIP. L'unica VIP a essere finita in carcere, che io ricordi, per evasione fiscale è stata Sofia Loren. Nell'82 finì per qualche giorno nel carcere di Caserta per scontare una vecchia pena di molti anni prima per una, diciamo, piccola evasione fiscale, e credo che sia stata l'unica a finire in carcere. Ammazza come avete studiato tutti e tre per fare bella la mia trasmissione di questa mattina. Peraltro, Angelo, ti voglio fare un'ultima domanda invece sul tuo lavoro sulla lista Falciani. Si sono completamente abbassati i riflettori su quella denuncia clamorosa di un anno fa che hai fatto con il diretto interessato, con il tuo libro? Allora, stanno andando avanti i processi tributari in Italia, però dal punto di vista, diciamo, penale c'è stata una grande contraddizione in questo paese, nel senso che soltanto adesso si è chiarito, solo da poco, si è chiarito che i dati a livello legale, i dati della lista Falciani possono essere utilizzati. Proprio oggi sul Sole 24 Ore, ad esempio, abbiamo un articolo nella sezione norme e tributi che parla di questo. Ma questo è stato fatto a 6 anni di distanza dall'emersione, diciamo, dello scandalo. Nel frattempo, a livello penale, i vari scudi fiscali hanno chiuso qualsiasi strada per i magistrati. I magistrati hanno dovuto archiviare le posizioni. In Italia, devo dire, non sono stati recuperati molti soldi. In altri paesi, penso alla Francia, penso soprattutto alla Spagna, ma anche alla Germania, sono stati recuperati tanti soldi. Allora, noi stiamo chiudendo questa parte. Intanto saluto e ringrazio Raffaello Lupi, il nostro esperto di questioni fiscali e diritto tributario. Lupi, lei lo sa che Gigi D'Alessio ha detto che per pagare i suoi debiti dovrà crantare per altri 15 anni. Lui ne ha 49, forse non ha capito che le prossime riforme delle pensioni lo obbligheranno a crantare un po' di più, non solo per pagare i debiti, perché non andrà in pensione tanto presto. Detto questo, forse ci dobbiamo radunare. Io, lei, Stefano Elli, Angelo Minco, Cuzzi, per andarlo a sostenere andremo ad un concerto per aiutarlo a ripianare i suoi debiti. Viene Ma con noi? Appunto, noi parlavamo di uno che è stato fregato dai soci in affari e abbiamo fatto una trasmissione sugli evasori praticamente, mentre D'Alessio lo so, non era un evasore, cioè abbiamo parlato di un'altra cosa. E vabbè lo so, d'altronde se no ci toccava parlare, la scomoderemo magari anche per quell'argomento, sì, perché effettivamente forse di storie come queste ce ne ne sono un po' meno, magari ci sono appunto i calciatori che investono in ristoranti e non essendo il loro business questi ristoranti li chiudono abbastanza rapidamente. C'è il caso clamoroso anche di Gigi Buffon, che ha investito in una società quotata in borsa, la Zucchi, che pure non è andata tanto bene, ci ha dovuto mettere un sacco di soldi, anche quell'aspetto. Questi sono situazioni più calzanti, Lupi. Si fidano troppo dei rapporti relazionali, così come si fidano dei loro mediatori per trovare gli ingaggi, si fidano di chi gli consiglia gli affari, si fidano del Madoff dei Parioli. Niente, è la componente fiduciaria che fa parte della professione che li stritola. Vabbè, insomma, i loro talenti sono altri, d'altronde, giustamente, anche se poi ci sono personalità molto molto più scaltre ed intelligenti che invece non si lasciano gabbare facilmente. Allora ci fermiamo, un grande saluto a Raffaello Lupi, a Stefano Elli, Angelo Mincuzzi, c'è la pubblicità e torniamo in pochissimi minuti. Ma cos'è quest'estate? Poi lo sai, non c'è un senso questo tempo che non dà il giusto peso a quello che viviamo. Ogni ricordo è più importante condividerlo che viverlo. Vorrei, ma non posso. E ancora un'altra estate arriva. Stavo condividendo con i miei colleghi in regia l'emozione di cantare questa canzone in macchina con il proprio nipote. È un'esperienza che suggerisco a tutti di poterla fare, molto divertente. Vorrei ma non posto, ma intanto tutti postano qualunque cosa e si affrettano a taggare tutti gli amici. Dal tormentone dell'anno cantato da Fedez e J-Ax c'è tutta l'espressione di quello che siamo diventati, maniaci del social network, ansiosi di far vedere a tutto il mondo quello che facciamo, o almeno di far intendere quello che facciamo, perché c'è anche questo sottofenomeno, anche se non lo facciamo, ma altrettanto ansiosi, perché questa non sempre è semplice curiosità, di controllare quello che fanno gli altri. Siamo insomma in preda a questa ansia da prestazione digitale, questa fobia tutta moderna che si chiama FOMO. Ne parlavano diversi giornali in queste settimane. E in particolar modo lo approfondiva un articolo della Stampa nei giorni scorsi. Il FOMO è acronimo di Fear of Missing Out, la paura di perdersi qualcosa, e insomma la studiano sociologi, esperti di nuovi media, terapeuti e non solo, e noi tutte queste categorie le abbiamo coinvolte questa mattina per così un'analisi di questo nuovo fenomeno, che in realtà, poi andando ad indagare ieri, ho scoperto che è tutt'altro che nuovo, perché in realtà hai voglia da quanto se ne parla, ma forse anche il social network ha enfatizzato lo studio di questa paura appunto di perdersi qualcosa frequentando così assiduamente il mondo digitale. Allora intanto saluto e ringrazio per essere con noi, raccontateci anche magari voi se siete così vittime di questa paura in maniera del tutto inconsapevole, non sapevate che magari dal punto di vista della sociologia dei media e non solo appunto fosse attentamente un fenomeno studiato, raccontatecelo all'800240024 e scriveteci anche al 349-238-6666. Siete tra coloro che davanti ad un tramonto meraviglioso e stupendo, prima di contemplarlo e goderselo un attimo, in realtà sono ossessionati dall'idea di fare una fotografia e di metterla subito su Facebook, perché in parole povere, professoressa Antonella Mascio, docente di sociologia dei nuovi media all'Università degli Studi di Bologna, il problema è questo. Buongiorno intanto. Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti. Sì, in parte il problema è questo, è chiaro che va sempre poi contestualizzato in una cornice ampia, perché quello che accade oggi alla luce insomma del fenomeno dei nuovi social media, che vanno sempre più poi aumentando e caratterizzandosi anche per linguaggi diversi, è chiaro che è una situazione che possiamo anche collocare un po' già all'inizio degli anni 90, quando cominciano a essere presenti le prime forme di comunità virtuali realmente in qualche maniera frequentate dagli utenti. E quest'ansia, come dire, da prestazione è connessa in qualche modo sì all'uso del social e anche alla voglia di esprimersi, di mettersi in evidenza all'interno di questo strumento per essere senz'altro guardati. Dicevo, è però un fenomeno che va contestualizzato e le ricerche più recenti lo pongono come tipico soprattutto di alcune fasce di età. Cioè, queste ricerche ci fanno insomma riflettere soprattutto sull'uso che gli adolescenti fanno di questo tipo di tecnologie che, fra l'altro, anche qui insomma va sottolineato, sono sempre più mobili, quindi è chiaro che la fotografia di un tramonto oggi è possibile perché lo strumento che gli adolescenti utilizzano di più, il device che utilizzano di più per connettersi in rete, per restare anche in relazione con il gruppo di pari, è appunto lo smartphone. Quindi è chiaro che tutto ciò va sempre, come dire, compreso in un quadro ampio dove partecipano da un lato gli usi singoli ma anche sociali, chiaramente, perché è chiaro che c'è una risposta da parte del gruppo poi, no, rispetto evidente a quello che si fa, e però è anche come dire, debitore tutto ciò di quello che ha a che fare con la progressione tecnologica. Quindi ad esempio una differenza notevole fra la fine degli anni 90 e oggi è dovuta proprio al fatto che noi device ce li portiamo dietro, sono sostanzialmente parte di noi, quindi facciamo molta fatica a stare un giorno senza il nostro smartphone. Questo ci permette anche poi di mostrare dove stiamo. Infatti, allora, lei intanto le devo riconoscere che mi ha dato subito l'assist perfetto per coinvolgere anche un altro dei nostri due successivi ospiti che tra poco vado a presentarvi. Intanto Alberto Pellai, amico di Cuore e Denari fondamentalmente, oltre che di Radio 24, psicoterapeuta, lo coinvolgerò fra un attimo. Alberto, intanto buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie di essere con noi, un tema che so ti sta molto a cuore, questo perché ti occupi prevalentemente appunto di età evolutiva e il tema del coinvolgimento a seconda di questa paura, a seconda della fascia d'età a cui si appartiene, un tema assolutamente pertinente e delicato. Prima però volevo per un attimo rimanere con la professoressa Mascio, perché lei continua a parlare di social media, io invece parlo di social network, e le vorrei chiedere sì, se sono concetti, se parliamo dello stesso concetto, o seppure lei da professionista dei nuovi media appunto ci può esprimere una differenza fra questi due termini. Il social media è lo stesso social network? Sì, in qualche maniera è un po' l'uso che poi definisce anche le categorie, quindi diventa appunto media nel momento in cui il pubblico diventa ampio, e quindi anche quello che noi abbiamo rispetto allo strumento a disposizione insomma va a inserirsi in un ambiente che è più simile a quello praticamente mass mediale. È chiaro che queste categorie sono tutte, come dire, oggi molto sfumate anche nell'ambito della ricerca, anche nell'ambito proprio dell'insegnamento, poi le proponiamo sempre di più come categorie sfumate, nel senso che anche la differenza, ad esempio, fra media cosiddetti tradizionali e non media oggi va ad assottigliarsi. Intanto, ritorno. Non so se voi mi sentite bene, io ho un ritorno di voce. Noi la sentiamo benissimo, però la recuperiamo immediatamente la telefonata con lei, così ci può sentire bene. Intanto stavo monitorando che cosa stanno scrivendo i nostri ascoltatori, ho chiesto loro se hanno quest'ansia da prestazione digitale, come si esprime, come si manifesta. Subito un ascoltatore ha scritto: io controllo solo cosa pubblica la mia ragazza quando litighiamo. Ecco qua, qualche volta, Alberto Pellai, il punto è proprio questo, anche di fronte ad uno scontro che avrebbe bisogno magari di un confronto faccia a faccia, oggi si va il confronto è passato direttamente su altri canali, no? Quindi magari una prima osservazione te la chiedo su questo, perché ce la offre questo ascoltatore, poi andremo anche all'ansia da prestazione digitale che colpisce i più giovani, gli adolescenti. Alberto, quello che ci dice l'ascoltatore in realtà è proprio un fenomeno molto frequente, direi che uno degli aspetti più rivoluzionari dell'ingresso dei social media nella nostra vita. Hanno davvero abolito il concetto di privatezza e il concetto di intimità, per cui le cose e le dimensioni più private e più intime della nostra vita spesso diventano immediatamente dei fatti, degli eventi, delle immagini, delle parole che vengono gettate al mondo, presentate al mondo, a volte addirittura ancora prima di essere presentate invece al diretto interessato, questo poi con una concatenazione di eventi negativi, di conseguenze, di rotture di relazione spaventose. In generale però direi proprio che la prima riflessione da fare è che la mutazione, c'è proprio una mutazione antropologica, cioè tutto quello che era oggettivamente dentro una relazione privata, dentro all'intimità, dentro a uno sguardo, occhio che guarda occhio dell'altro, e che conseguentemente lì dentro, in quello spazio molto chiuso, in qualche modo lavora sulle proprie difficoltà, sulle proprie emozioni, sulle proprie relazioni, oggi è totalmente spostato nel fuori. E proprio per fare un aggancio a quello che dicevi prima tu e anche l'ospite sugli adolescenti, questo è oggettivamente un problema per chi sta crescendo, perché in adolescenza uno dei lavori fondamentali è quello di lavorare profondamente dentro se stessi, intorno all'idea di sé, intorno alla persona che vorremmo essere e diventare. E questa è una cosa, per esempio, che hanno fatto che ha fatto la gran parte di noi, per esempio stando sdraiati sul proprio letto per ore a guardare nel vuoto, oppure compilando un diario segreto dove noi stessi raccontavamo noi stessi a noi stessi. In questo momento invece i ragazzi hanno questa abitudine incredibile di buttare tutto subito fuori senza lo spazio del pensiero. E cioè deve cosa deve dirci questo nuovo modo di manifestare le proprie emozioni, Alberto? C'è proprio un'abolizione dello spazio del pensiero, cioè quella che lo psicologo definirebbe un po' come la capacità di autoriflessività, cioè di pensare su se stesso, e di conseguenza anche FOMO, la fear of missing out, quest'ansia da tutto quello che succede nei social, è proprio un po' come aver spostato il luogo di controllo di noi stessi fuori da noi e averlo affidato a un'infinità di altre identità, altre relazioni, altre persone, spesso proprio neanche intime con noi, che definiscono il valore di ciò che siamo. Allora, adesso parleremo anche degli adolescenti in maniera più approfondita, Alberto, perché quello che mi interessava capire è anche se questa ansia da prestazione digitale ad un certo punto diventa anche il terreno di competizione sulla vita sociale per i ragazzi, quindi in qualche maniera può essere anche la frequentazione dei social media pericolosa in questo senso. Tornerei anche sull'ascoltatore che prima ci ha scritto che lui controlla quello che scrive la sua ragazza solo quando litigano, aggiungendo poi in un messaggio successivo: ma non è per malizia, è che a volte forse anche questo è un modo per capire il livello di rabbia, di delusione, e magari provare anche a rimediare, visto che c'è anche l'aspetto positivo. C'è il traffico adesso, poi vi presento un altro ospite tra poco. Ma cos'è quest'estate? È stata anche l'estate in cui si è ritornato fortemente a parlare appunto di questa FOMO, Fear of Missing Out, l'ansia da prestazione digitale. Non nuovo, quest'anno invece forse nuova, perché molte persone probabilmente hanno preso un po' più coscienza di essere state colpite da questa patologia del mondo virtuale. C'è un divertente messaggio che ci manda un ascoltatore su WhatsApp, lo correda anche con un'immagine. Nel suo ufficio c'è questo cartello, c'è una scala dove praticamente alla parte superiore è scoppiato un incendio, nella parte inferiore c'è disegnato l'omino con il telefono in mano e sotto il messaggio: in caso di incendio scappare prima di scriverlo su Facebook, grazie lo staff. Mi sembra molto chiaro. Federico Mello, giornalista, scrittore, è uscito da poco il suo ultimo libro, Le confessioni di un nerd romantico. Federico, buongiorno. Buongiorno a tutti. Collega giornalista, ha lavorato ad Anno Zero, a Ballarò, su Rai 3, consulente di Massimo Gianni, insomma potrei fare un lunghissimo curriculum, ma soprattutto esperto del mondo di cui stiamo parlando questa mattina. Chi è il nerd romantico? È lo smanettone dei social? È malato di FOMO? Allora, sì, esattamente, il nerd romantico è il nerd, quindi quello che ha tutte le caratteristiche del nerd, i social, i computer, come dire, segue dibattiti online, sa quali sono le cose che funzionano di più, eccetera, eccetera, però prendendo consapevolezza di come questo meccanismo si può trasformare facilmente in un meccanismo di obesità, cerca in qualche modo di inserire un percorso un po' di detox, o quantomeno di piccoli Ramadan, potremmo definirli, no? Cioè, quindi il nerd vive totalmente immerso nel meccanismo dei social, nel meccanismo insomma delle discussioni digitali, ma capendo che è un, come dire, un meccanismo che può degenerare facilmente rispetto alla cioè può causare facilmente perdita di controllo, capendo nei meccanismi che stanno dietro la perdita di controllo, ecco, cerca di utilizzare questi strumenti in maniera un po' più sostenibile. E fondamentalmente, se vuoi, il nerd romantico è, come dire, anche un approccio in qualche maniera esistenziale filosofico rispetto a quello che, se vogliamo, è l'approccio andante e più diffuso, che è quello che io definisco l'approccio connettista. Ovvero l'approccio connettista cosa dice? Che più internet è sempre meglio di meno internet, in qualsiasi occasione. Devi pubblicare, devi condividere, devi avere una pagina Facebook, qualsiasi realtà deve essere interattiva, deve digitalizzarsi. Ecco, il nerd romantico invece dice: ma forse c'è anche, non è detto che per forza è così, non è detto che per forza quando c'è internet questa cosa dà un valore aggiunto, a volte può essere, può sottrarre valore invece a delle situazioni, a delle dimensioni come prima citavi, la relazione sentimentale, ma anche banalmente la concentrazione al lavoro o il tipo di vita quotidiana che si può fare, o proprio l'istinto che viene quando si vede una cosa bizzarra per strada di tirare fuori il telefono, fotografare e condividere la foto. Certo. Ecco, il nerd romantico magari si impone un paio di ore al giorno di lasciare il telefono a casa, infatti, o di spegnerlo, o di riuscire insomma a non diventare poi schiavo del meccanismo, perché il discorso è: se noi siamo sempre connessi, come dire, qual è il limite estremo di questa connessione? Essere connessi praticamente sempre, no? E invece va riscoperto quello che io definisco un tempo bio, cioè banalmente un tempo che è un tempo come era una volta, un tempo dove non si ha una dimensione interattiva, non si ha appunto il FOMO. FOMO, che ne stiamo parlando stamattina, però secondo me più che ansia da prestazione, io FOMO lo definirei ansia da frustrazione, ovvero e il FOMO interviene soprattutto in termini passivi. Faccio l'esempio: io sto a casa a mangiare la pizza, apro Facebook e vedo che tramite l'algoritmo del social network che mi mostra i contenuti più popolari, quel mio amico sta al concerto, quell'altro mio amico sta a mare a farsi il bagno, quell'altro mio amico è con la fidanzata, quell'altro mio amico sta facendo una roba fichissima. Quindi rispetto a queste vite scintillanti, a me la mia vita, la mia serata a casa da solo, che magari potrebbe essere anche una serata tranquilla, mi appare una serata un po' squallida. Tutto in maniera, no? Un po' quelle che trascorreva Nanni Moretti, che negli anni 70 si chiedeva, visto che il FOMO ha questi precedenti illustri: mi si nota di più se vengo, se me ne sto in disparto, se non vengo per niente. Esattamente, ma la cosa che dovremmo un po' capire di questi meccanismi dei social network, che noi siamo abituati a pensare che siano strumenti neutri, no? Cioè che siano strumenti vuoti che noi riempiamo come vogliamo, invece non sono strumenti neutri. Da una parte non sono strumenti neutri perché noi passivamente non riceviamo tutte le informazioni di tutti i nostri contatti, ma riceviamo le informazioni più popolari, quindi che hanno caratteristiche maggiormente di sensazionalismo, di bizzarria, di essere fuori dall'ordinario. Dall'altra parte, non è che noi siamo portati, e agli adolescenti di più, ma secondo me in qualche modo riguarda tutti ormai questa cosa, esatto, a condividere tantissime cose della nostra vita. Però dobbiamo anche capire che uno strumento come Facebook, per esempio, è progettato assolutamente per farci pubblicare più contenuti possibili. Lo sa bene Mark Zuckerberg, è venuto a chiederci anche a Roma appunto se può fare di più, naturalmente per utilizzare al meglio tutte le informazioni che gli mettiamo a disposizione, per cui a parte le informazioni che sono importanti, se voi aprite Facebook è un invito continuo: cosa stai pensando in questo momento, sii il primo a commentare, di la tua, chiedi l'amicizia a queste persone che potresti conoscere. Ti ho individuato, io ieri sono stato a Fiumicino, ho aperto Facebook e dice: ci sembra che tu stai a Fiumicino, vuoi condividere con gli amici questa cosa? È tutto cioè, è chiaro che il social network guadagna quanto più noi condividiamo delle cose e quanto più interazioni abbiamo. Infatti. Quindi è progettato totalmente per farci condividere delle cose. Ecco, va rotto un po' questo meccanismo, perché ripeto, non è neutro il social network. No, No, sentiamo cosa suggerisce allora il terapeuta proprio su questo aspetto. Grazie a Federico Mello. Alberto Pellai, visto che ti avevo lanciato sul tema dei ragazzi e il social che diventa ad un certo punto terreno di competizione proprio sulla vita sociale, il confronto fra sé e gli altri, è un pericolo per i nostri ragazzi? Ti chiedo un messaggio su questo. E ci si può curare secondo te dal FOM in qualche modo, o è una malattia che non ha assolutamente alcuna cura? Ma è un pericolo per i nostri ragazzi nel momento in cui nel loro percorso di crescita il vivere dentro la dimensione social, dentro la dimensione virtuale, significa allontanarsi invece dal principio di realtà. Le competenze prosociali, che servono tantissimo nel percorso di crescita, vengono acquisite dentro alle relazioni reali e non dentro alle relazioni virtuali. E per esempio c'è proprio un saggio di un neuropsichiatra tedesco che parla di demenza digitale, dicendo che questo stare costantemente con la propria vita dentro un mondo virtuale in realtà ha un impatto molto forte, soprattutto in età evolutiva, rispetto al modo in cui si struttura il nostro cervello, in particolare le sinapsi, le integrazioni sinaptiche tra la zona emotiva e la zona cognitiva del cervello. Detto questo, si può fare qualcosa? Sì, intanto come adulti avere un progetto educativo, cioè sentire che quando entra uno strumento come lo smartphone nella vita di un bambino, non è che gli stiamo dando in mano una macchinina, gli stiamo dando in mano uno strumento potentissimo che ha la capacità di uncinare il suo cervello e di tenerlo poi lontano dalla vita reale per molto tempo. Allora servono regole, e serve proprio che le mamme e i papà sentano di dover essere genitori non solo nella vita reale dei loro figli, ma anche nella vita online. In generale poi direi che quello che diceva anche Mello prima, cioè dovremmo sentire che c'è bisogno di fare una sorta di Ramadan, di digiuno, no? Di tanto in tanto. Le più grandi multinazionali in questo momento offrono ai loro dirigenti come formazione la permanenza in zone isolate da qualsiasi possibilità di contatto con i social, al centro di una foresta, dove devono ancora imparare la vita reale, a stare al mondo senza stare costantemente connessi, e lì giocarsi un po' tutta una serie di competenze che fino a 30 anni fa erano la base del nostro stare al mondo. Non che 30 anni fa fosse meglio, ma il concetto è che questa roba è arrivata così potente nella nostra vita che probabilmente, come dice anche l'esistenza di FOMO, abbiamo perso il controllo. Esatto, e quindi bisogna rimetterlo sotto controllo. Grazie anche ad Alberto Pellai. Allora, sto andando velocemente verso la chiusura di questo lungo periodo di conduzione della fascia del mattino. Speriamo di aver fatto un lavoro degno, altrimenti da lunedì sono bacchettate anche per me, perché rilascio un'eredità. Allora, tra l'altro, il tema della demenza digitale mi ha colpito molto, devo trovare in qualche maniera il modo con Nicoletta Carbone a ripartire dalla prossima settimana di affrontare anche questo nuovo argomento di cui vengo a conoscenza questa mattina. Allora, foto pubblicate su Facebook delle belle vacanze che gli altri passavano mentre io ero qua al lavoro, e ovviamente guardavo tutta la vacanza in Malesia di Alessandro Milan. No, Deborah, davvero, molli il programma. No, ma perché non vai avanti altre 2 settimane, 3 settimane, 4 settimane? Perché non è proprio una passeggiata fare queste 2 ore del mattino su temi che non sono solita affrontare e masticare, per cui devo dire che lo studio del pomeriggio è stato anche estenuante. Pensa, mi sono cimentata nella giustizia, nella migrazione, l'immigrazione, il vertice di Ventotene, per poi ovviamente anche tutto lo spazio che abbiamo dovuto dare al terremoto. Appunto, puoi continuare. È stato un agosto vivace, a dir poco. Che cosa hai in programma per noi da lunedì? Purtroppo ti do solo 20 secondi di tempo. Ma no, in programma torna al Parlamento alle 6:30, la lettura dei giornali alle 7:15, poi c'è Oscar Giannino dalle 8:15, torna al vecchio schema, insomma. Squadra che vince non si cambia. Assolutamente, ottimo. Io invece ritorno con la mia Nicoletta Carbone a Cuore Denari a parlare di benessere, stile di vita, di finanza e salute. Vedi, allora ottimo, insomma, si vedi che le vacanze ti fanno male, devi stare qua a lavorare. Grazie ad Alessandro Milan, buon lavoro per lunedì. Grazie a tutta la squadra di Ma che cos'è quest'estate. Saluto Elisabetta Fiorito in redazione, Silvi Boccaletti, Elisabetta Fusconi, Massimiliano Lollis in regia, Peter Bescapè, Paolo Corleoni al centralino, le amiche Rosa e Michela. Ti rendi conto che squadra? Che squadra! A presto, buona giornata.